Vorrei ringraziare l'amico Turchini perché ha fatto un grosso lavoro di sintesi panoramica e anche così ha stimolato la nostra attenzione su problemi tuttora aperti riguardanti il problema della utilizzazione anche delle visite pastorali. E questa panoramica, appunto, abbraccia sostanzialmente un periodo degli ultimi, tranne l'excursus per i periodi precedenti, qui e lì ma direi rapsodici, episodici, no? Dell'interesse a un certo punto, da 20 anni a questa parte, per questo tipo di fonte, le visite pastorali, come utilizzarle, il significato, la portata, non soltanto per la storia ecclesiastica, per la storia della pastoralità, ma in genere per la storia della nostra società, anche società civile. Quando noi oramai, sono 16 anni fa, abbiamo affrontato questo problema della retestazione delle visite pastorali venete. Ci auguravamo di poter fare altrettanto con le visite pastorali del Mezzogiorno. Dirò perché questo secondo tentativo è solo in parte riuscito. E pur partendo dall'analisi delle visite pastorali, abbiamo dovuto dirottare verso un altro tipo di indagine sulle visite pastorali del Mezzogiorno. Quando noi dunque abbiamo iniziato questo lavoro delle visite pastorali, della registrazione delle visite pastorali, dobbiamo fare un salto a 16 anni fa, 1964-65, quando abbiamo affrontato il problema e quindi questo sforzo è necessario per capire il momento in cui noi abbiamo avviato questa nostra fatica. Quali sono state le domande che avevano sollecitato, ci avevano spinto ad affrontare questo ambizioso progetto, è così definito ambizioso progetto nella introduzione ai repertori delle visite francesi che sono venuti qualche tempo dopo, qualche anno dopo il nostro, i nostri amici francesi, Benard, Dominique e Julia, avevano presente i primi volumi di queste visite pastorali. E non dico che si sono arretrati di fronte all'impegno che noi avevamo assunto, tuttavia hanno messo le mani avanti e detto no, questo tipo di impresa veramente ambiziosa, stiamo a guardare com'è che va a finire, noi seguiamo una via più controllata, più utile a servizio del possibile ricercatore di visite pastorali, fare conoscere, secondo i francesi, gli amici francesi, quello che si conserva negli archivi diocesani in Francia. Ricordo che il nostro primo volume di visite del vescovo Flangini di Treviso, che fu curato da Pesce, fu recensito positivamente da Gabriele Braz in un numero dell'archivio. Le chance della religione, allora si chiamava semplicemente. Una brevissima recensione che però noi, che ci commosse perché non immaginavamo mai che avrebbe suscitato l'attenzione di Gabriele Braz, un lavoro del genere. Gabriele Braz disse: accidenti, in Italia stanno facendo questo po' di lavoro. Stiamo attenti, guardiamolo perché può venire fuori qualche cosa di utile, di importante da rimeditare, eccetera, eccetera. E questo risale, la recensione risale al 1970, qualche tempo prima della morte di Gabriele Brass. Quale intento ci proponevamo noi? Diversi intenti. Il primo intento era nato dal problema, possibilità di scrivere una storia della Chiesa regionale, della Chiesa del Veneto, invece che partendo, per così dire, dai vertici, dalla sequenza dei vescovi, dei sinodi, eccetera, partendo da una qualche cosa che potesse avere il valore di uno studio della struttura di base della Chiesa. E quindi partire da un'analisi delle visite pastorali studiate, analizzate globalmente, non utilizzate parzialmente per cavarne soltanto dati importanti per la demografia storica o per la storia dell'arte, anche questo è importante perché nelle visite si parla delle effigie, dei quadri, dei tabernacoli, degli altari, pregiati o non pregiati, che erano estremamente interessanti. Questo era un utilizzo che si faceva da tempo immemorabile, tanto nelle visite medievali quanto per le visite dell'età moderna. E noi non pensavamo di interessarsi alle visite per cavarne fuori un utile particolare per una ricerca particolare. Volevamo invece esaminare la visita nella sua globalità, ben sapendo e chiarendo fin dal primo dal principio a noi stessi che non si identificava la visita con la storia religiosa locale, era una fonte. Si poteva prendere, dal momento che eravamo partiti dall'idea di studiare globalmente la visita, si poteva partire dall'idea di prendere una qualsiasi visita, ecco, del 1850, 70, 80, e esaminarle così casualmente, oppure invece esaminare la continuità della visita pastorale. Quindi trovare un tipo di registrazione, un tipo di questionario con cui interrogare la visita valevole per tutte le visite che volevamo analizzare. Abbiamo impiegato qualche cosa come circa 2 anni di lavoro intenso solo per cercare di individuare metodo, questionario, maniera di interrogare la visita pastorale, facendo quelle distinzioni che ha illustrato anche l'amico Turchini e che voi avete qui in fotocopia. Ecco, 2 anni per trovare un criterio comune per tutti i nostri giovani ricercatori. Quindi non solo la globalità, ma la globalità nella continuità, quindi impostazione di un lavoro storico seriale. Le visite in serie. Perché in serie? Perché solo attraverso la serie, attraverso la continuità, a nostro parere, era possibile rilevare l'evoluzione della pastoralità, dell'atteggiamento pastorale del Vescovo, ma non solo dell'atteggiamento pastorale del Vescovo, l'evoluzione sia pure indiretta della società, della collettività religiosa, della mentalità del clero, e in terza maniera, attraverso l'indagine della visita, come venivano recepite le modificazioni della società economica e della società civile tout court. Ecco, questo era per noi l'altro problema. Ce n'era poi un altro, in fondo, molto interessante e importante per noi. Mi ricordo che la parola d'ordine che circolava tra noi, Gambasin se lo ricorda, era salvare il salvabile. Perché salvare il salvabile? Perché avevamo netta la sensazione, e non era solo sensazione, che fosse in atto una dispersione del materiale delle visite, un po' per quegli utilizzi precari di cui che ha ricordato anche il nostro amico Turchini e che sono continuate da tempo immemorabile, cioè quello di smembrare la visita per prendere di ogni parrocchia il materiale e infilarlo in archivio nella cartella parrocchia, così si perdeva il senso generale della visita. E allora, poiché non si poteva essere presente dappertutto, cercare di ottenere un tipo di documentazione che preservasse a livello documentario, con tutti i limiti ma anche i pregi della registrazione, l'unitarietà, ecco, della visita pastorale. In fondo, poi in ultimo, che questo man mano l'abbiamo acquistato con consapevolezza, c'era un aspetto non indifferente, non importante, non di poco conto, ed era quello che la registrazione della visita, di una visita pastorale, specialmente nel Veneto, che mostra di avere nei suoi archivi abbondanza di questa documentazione, poteva costituire un ottimo esercizio preparatorio proprio per il giovane ricercatore. Addestrarlo alla lettura di un documento così complesso, che, data anche la terminologia adoperata e i riferimenti vari al diritto canonico, a tanti altri aspetti anche della vita sociale e religiosa, impegnava lo scrutatore, impegnava il ricercatore ad un lavoro serio di tipo erudito archivistico, ma che era un mezzo, uno strumento utile domani, che poteva essere adoperato e trasferito anche in altri settori. Questo era, diciamo così, l'animo con cui noi ci siamo predisposti a fare questo lavoro. L'ambizione dov'è che stava? Creare un corpus unico di documentazione delle visite pastorali a livello regionale, che doveva costituire la premessa, ecco, di un possibile nuovo racconto storico della storia, appunto, della Chiesa nel Veneto, utilizzando globalmente, appunto, anche questo tipo di fonte, non solo quelle tradizionali, non solo i sinodi, non solo le varie assemblee del clero e così via, non solo la corrispondenza con Roma e altre storie di questo genere, ma utilizzare proprio la visita e vedere attraverso la visita come si muoveva il pastore, come si muoveva la Chiesa, come si muoveva la società religiosa e come si muoveva la società civile, i problemi economici. Basta accennare ad alcune cose importanti per talune epoche, per talune zone, per esempio il problema dell'emigrazione, la carenza della documentazione civile e invece l'abbondanza della documentazione nelle visite pastorali, che ci poteva dare un qualche taglio, fornire elementi importanti per questi aspetti. Quindi, come periodizzare? Da dove incominciare? E ci è sembrato che una data importante fosse appunto quella della fine della pace di Campoforno, la fine della Repubblica di Venezia, dopo l'introduzione di una serie di leggi napoleoniche e poi il ritorno a quelle austriache, che avevano alterato e modificato sensibilmente la struttura dell'organizzazione ecclesiastica e nello stesso tempo anche problemi economici, problemi di vita civile, delimitando i confini di un territorio che rientrava oramai in un'altra dimensione storico-politica. Ecco, quindi incominciare da Campoformio e vedere attraverso le visite pastorali come questo mondo religioso a livello vescovile, diocesano, ma poi a livello della struttura parrocchiale e poi nel rapporto con la popolazione locale, e si era venuto man mano modificando. Strumento importante, altra indicazione importante per cogliere queste evoluzioni, ci poteva essere fornite fornita dai questionari che precedono la visita pastorale, cioè la serie delle domande che i vescovi mandavano ai parroci, questionari che i parroci dovevano riempire rispondendo appunto a una serie di domande. Ecco. È chiaro che per noi, come è diventato chiaro, recentemente poi abbiamo tenuto dei seminari proprio dedicati soltanto all'esame dei questionari, che la modificazione della struttura del questionario poteva significare qualche cosa per quanto riguardava la modificazione della mentalità, dell'orientamento non solo del vescovo, ma anche di ciò che si modificava a livello della società civile. Quando a un certo punto le domande, da un numero tradizionale di una ventina di domande ai primi dell'Ottocento, diventano 370, 500 domande che vengono rivolte ai parroci dai vescovi, da Rodolfi a Pellizzo, è chiaro che qualche cosa deve essere avvenuto e cambiato. Che domande erano, che cosa che riguardavano, eccetera. Questi erano fatti estremamente importanti. Quindi la globalità della visita, la sua serialità, erano i due fattori, i due elementi costanti che abbiamo mantenuto nell'esame delle visite pastorali. Ripeto, era una preoccupazione di arrivare ad uno studio di storia religiosa regionale. Non avevamo l'ambizione di fare un lavoro analogo per tutte le visite pastorali italiane. Era una cosa, ed è effettivamente una cosa impossibile. Noi ci siamo proposti questo tipo, questo obiettivo, questo fine, che era collegato non soltanto a un problema pur e semplice di registrazione, ma di utilizzo storico anche della registrazione. Non fare un lavoro fine a se stesso, ma fare un lavoro che doveva essere preparatorio di questo tipo di storia sociale della Chiesa che avevamo in mente e che soltanto adesso, negli ultimi mesi, abbiamo incominciato ad abbordare, a gettare le fondamenta per arrivare finalmente a scrivere questa benedetta storia della Chiesa, la storia sociale della Chiesa nel Veneto. Quindi direi che serialità, globalità, regionalità erano i termini correnti del nostro discorso, insieme a quell'altro più archivistico, se voi volete, quello del recupero di certo materiale per cercare di salvaguardarlo dai rischi di uno smembramento. È chiaro che quindi noi non ci muovevamo soltanto con un interesse archivistico erudito, ma, come ho cercato di spiegarvi, siamo partiti da un certo tipo di domanda che facevamo come storici: come arrivare a un tipo di storia sociale della Chiesa diverso, che non coincidesse e non fosse, si identificasse con la pura storia ecclesiastica. Questa operazione è giunta oggi così a qualche cosa come una ventina di volumi, ce ne mancano ancora alcuni, ce ne mancano alcuni anche di preziosi, per concludere la nostra impresa. Abbiamo rallentato questa impresa negli ultimi tempi perché questi volumi oggi sono diventati costosissimi, i costi tipografici ci mozzano semplicemente il fiato e quindi ci rendono problematica arrivare al culmine dell'impresa. Immaginiamoci se si volesse fare per tutta l'Italia. Tra l'altro, contrariamente a quello che uno può immaginare, noi abbiamo avuto aiuti e li abbiamo tuttora dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e da qualche anno anche dal Ministero dei Beni Culturali, ma non abbiamo mai avuto una lira dai vescovi uno può immaginare, sono protagonisti, eccetera. Nemmeno una copia per i loro seminari hanno mai acquistato. E forse così, intuendo che probabilmente il nostro è un lavoro storico, quindi non pastorale in maniera diretta, quindi interessava di meno. Per quanto riguarda invece l'altro problema, iniziativa parallela condotta con questa, di cui ha parlato anche Turchini, riguardante il Mezzogiorno d'Italia, il tentativo anche lì di costituire, di fare una collana di visite pastorali. La difficoltà, posso dirla subito rapidamente, la prima più importante è che se fatta eccezione per Napoli e per le grandi diocesi del Mezzogiorno, per le piccole diocesi a cui noi ci interessavamo, eravamo partiti dall'idea di tentare un lavoro di questo genere per le diocesi interne del Mezzogiorno, non per quelle conosciute di cui si aveva abbondanza e si ha abbondanza di materiale nelle grandi città, ma appunto nelle piccole diocesi, Campagna, Sarno, Marsico, queste zone qui, Policastro, eccetera, così via. E lì invece lo stato della documentazione non era tale da poterci portare su questo piano qui di ricerca globale, continua, come offrivano le possibilità delle fonti venete. Quindi adottare un altro schema, è quello appunto di cercare di utilizzare subito, immediatamente, la fonte a disposizione e, per quanto riguarda l'aspetto archivistico, procedere per inventariazione del materiale conservati in questi piccoli archivi diocesani locali: Sant'Angelo dei Lombardi, Campagna, Policastro, Teggiano, Acerenza, tutte le piccole località del Mezzogiorno, attraverso un'equipe di studiosi finanziata dalla regione Basilicata. E questi hanno preceduto a una inventariazione di una serie di materiali. E devo dirvi la verità che questo lavoro si è dimostrato molto prezioso, specialmente dopo il terremoto, perché l'archivio, per esempio, di Sant'Angelo dei Lombardi, possiamo dire che non esiste pressoché più, e ciò che resta di certi archivi, ricordo quello di Muro Lucano, è proprio quello che è stato inventariato da questi ragazzi, da questi giovani, ciò che è stato possibile recuperare in sacchi di cellofan e accatastati alla rinfusa, ma quello che resta di archivi di zone terremotate è appunto affidato a questi testi dattiloscritti di inventariazione fatta in epoca in cui non si pensava che sarebbe arrivato un terremoto a distruggere tutto questo. Ciò spiega perché subito, immediatamente alle notizie del terremoto, si sono ricostituiti questi stessi gruppi di giovani borsisti, ricercatori, eccetera, che sono tornati negli stessi luoghi che conoscevano bene per cercare in una maniera ordinata, possibilmente nella confusione, questo materiale. Ripeto, quindi, la importanza anche pratica che ha avuto questa volta, a livello di salvaguardia dei documenti, quest'opera di inventariazione che è stata fatta da questi giovani. Tutta la struttura della visita pastorale al Mezzogiorno poi si presentava in maniera difforme da quella veneta, e quindi consentiva dei confronti, e questo è stato un altro aspetto utile del nostro lavoro, il lavoro di comparazione continua che abbiamo potuto fare tra le due esperienze di ricerca attorno alle visite pastorali per alcune diocesi del Mezzogiorno e quelle del Veneto, i diversi problemi di metodo, di domanda, di impostazione che si ponevano per questo materiale che è risultato prezioso. e quindi anche una serie anche di diversità, di utilizzazione del materiale che vi ho detto, come anche una serie di problemi che ci sono posti a livello della, proprio così, delle domande da porre, dove è evidente che nel Mezzogiorno il problema del clero, della formazione, del reclutamento del clero, del ruolo del clero nei confronti della popolazione da un lato e nei confronti del pastore dall'altro si ponevano in problemi completamente diversi, mentre che si può adottare una periodizzazione del legittimo a partire da Campo Formio per quanto riguarda il Veneto, per il Mezzogiorno, data la permanenza della struttura ecclesiastica di tipo patrimoniale privato fino a quasi all'unità d'Italia, partendo dal Medioevo, poneva problemi che non erano più di periodizzazione. No? Ogni volta che affondavamo la nostra ricerca su qualche aspetto della vita locale, dovevamo fare i conti con fenomeni di lunghissima durata, direi quasi. L'emergere anche attraverso un fatto apparentemente contemporaneo di strutture, di mentalità, di forme di religiosità che avevano dimensioni e spessori antichi, antichissimi, direi quasi. Questo era un po' all'inizio e poi anche in seguito i problemi che noi ci eravamo posti, le tendenze che avevamo cercato di seguire. Avevamo escluso fin dal principio, lo dico chiaramente, la ipotesi di Mario Rosa, cioè l'ipotesi di arrivare, la proposta di Mario Rosa di arrivare al prontuario per aiutare il ricercatore negli archivi. Ben volentieri noi, se volevamo, potevamo aiutare ogni volta che gli è stato richiesto il ricercatore negli archivi, però il nostro problema non era quello di fornire un prontuario, quanto quello nel Veneto di arrivare invece a un tipo di registrazione che consentisse un utilizzo storico globale e seriale della fonte visite pastorali nell'ambito di altre fonti da utilizzare. Questa non era quella privilegiata, era quella nuova, che non è la stessa cosa di fonte privilegiata. Per quanto riguarda il Mezzogiorno, era quella di utilizzare gli archivi non centralizzati, ma quelli periferici delle diocesi che oramai non contano più niente oggi, sono o in amministrazione apostolica oppure sono finite spacciate, ma utilizzare il materiale conservato negli archivi e nelle parrocchie periferiche per una ricostruzione della mentalità, degli itinerari, delle strade, della vita della popolazione locale, eccetera, e così via, con questa però diversa proiezione storica per la quale era difficile poter tagliare così nettamente la sostanza religiosa secondo una periodizzazione, diciamo così, politico-sociale di tipo tradizionale. Io non vorrei andare molto più avanti, vorrei fermarmi alle poche cose che vi ho detto per poi semmai, sulla base delle vostre richieste, riprendere qualche aspetto, anche perché ci sono altre persone che possono parlare di questa nostra iniziativa, il professor Gambasina, la signora Bilanovic, l'amico Agostini, eccetera, che sono tra coloro che hanno lavorato da lunga data al centro studi e hanno registrato più di una visita pastorale e conoscono tutte le ansie, i problemi che noi abbiamo affrontato per avviare questo discorso. Alcune cose però brevemente vorrei dire. Una registrazione delle visite pastorali dalla fine del Settecento in poi è cosa indubbiamente diversa dalla registrazione delle visite pastorali che riguardano il Medioevo, anche l'Ancien Régime. La struttura della visita pastorale non è stata mai la stessa. Si dice visita pastorale tridentina ma così genericamente, perché rientra nello schema, nello spirito, nel principio della legislazione, della normativa tridentina. In realtà poi le cose sono diversamente, come Fiorani mi insegna: a un certo punto la visita pastorale è diventata un tormento per i vescovi, perché era preordinata, giuridicamente incasellata, dopo l'Orsini, dopo che divenne Papa l'Orsini e Lambertini. Lambertini, che era stato segretario della congregazione del clero, e che fu lui che, quando già come segretario della congregazione del clero, mi pare che sia 1730, che introdusse questa schematizzazione della visita, un certo tipo di, diciamo, di questionario a cui i vescovi dovevano rispondere, e dovevano rispondere nel latino cancelleresco di quell'epoca. Latino che ha continuato a imperversare nelle visite pastorali, non soltanto del 500-600, dove facilmente potevamo trovare l'alternanza con la lingua volgare, ma dal 700 in poi è difficile trovare una visita pastorale scritta in italiano. O la se si trova scritta in italiano, la si trova poi sempre con la risposta della congregazione concreta, che rimproverava il vescovo di avere steso la visita, la relazione ad limina, in lingua italiana, in lingua italiana, appunto. È da allora che è durata fino, potremmo dire, ai nostri giorni, fino al Concilio Vaticano II, questo tipo di visita giuridica formalizzata, anche se poi il contenuto, la risposta alle domande della congregazione del clero finiva, ma questo dipende appunto un po' dal cancelliere, un po' dal memorialista, un po' dal vescovo stesso, straripava e diventava un documento anche di storia, di riflessione sociale. Ecco. Quindi bisogna stare bene attenti nell'esame della visita. Certo, le visite ce ne sono, e la maggior parte, possiamo dirlo francamente, per la nostra sensibilità, noiose, stereotipate, si ripetono, sono uguali, sembrano non fornire nulla. Ma attenzione però, bisogna impadronirsi del linguaggio, bisogna impadronirsi dello schema, perché poche parole possono stare a significare un cambiamento. Certo, il boccone grosso capita ogni tanto, è capitato molto spesso con queste visite. Altre volte è tragico, non sono piatte, sono uguali l'una all'altra. Il vescovo non vuole faticare, anche perché è ammalato di podagra, molte volte deve andare, per quanto riguarda il mezzogiorno, a Napoli a farsi tirare il sangue, eccetera, e così via, no? Il studio delle malattie dei vescovi attraverso le relazioni dei limiti delle visite pastorali sono quanto mai interessanti, sono un aspetto curioso, ma sono estremamente interessanti per la ricostruzione dell'ambiente. Così scorgiamo che quando un vescovo era ammalato o non gliela faceva andare, lo sbattevano tranquillamente nel mezzogiorno, dove tutto poi continuava ad essere un enorme e continuo pensionato, anche per la vita di questi vescovi, come anche per lo studio degli itinerari, delle strade, l'itinerario che battevano i vescovi. Noi abbiamo tentato una ricostruzione per gli itinerari battuti dai vescovi, sono un aspetto importante anche per la storia della viabilità nel mezzogiorno. Questo lo abbiamo fatto. Certo, per noi oggi è inconcepibile pensare che una grossa percentuale di vescovi nel mezzogiorno camminava a dorso di mulo, perché doveva scendere da una collina all'altra, attraversare torrenti e fiumi per poi salire ad uno di quei paesi presepi che noi conosciamo. Ma appunto questo è estremamente importante per noi, come anche altri aspetti su cui non vi sto qui a sottolineare. I due aspetti ultimi più importanti su cui noi lavoriamo è, attraverso la visita pastorale e i catasti e altre fonti, lo studio dei percorsi della santità nel mezzogiorno. Ecco. se è santità gratuita o se la santità è legata anche a fenomeni di vita sociale, di vita economica locale. Ecco, perché quel santo permane lì e perché quel santo fa quel tipo di miracolo. Che significa quel miracolo lì e l'atteggiamento del clero, della Chiesa, di fronte al miracolo. L'ultimo aspetto che stiamo indagando ed esaminando sono delle fonti integrative per la conoscenza della storia religiosa locale, cioè i verbali dei capitoli, dei collegi, delle collegiate. Verbali dei capitoli e delle annesse platee che sono per talune zone di un enorme interesse perché sono l'avviamento a capire come si è formata in certe regioni del Mezzogiorno una classe borghese. La classe borghese esce dai seminari e dai capitoli. Non è l'esplosione di una borghesia originaria, giacobina, eccetera. Chi è che ha in mano la scrittura? Questi verbali sono documenti di una scrittura che è nelle mani di questo clero, che è clero proprietario, che gestisce in proprio questi beni. Lo studio dei verbali consente di avvertire la preparazione, la formazione, l'intelligenza di questo clero, che è un clero molto più autonomo e indipendente di quello che solitamente si possa immaginare nei confronti tanto di Roma quanto del clero locale. Quindi anche questa prospettiva di utilizzo di questo tipo di fonti che possiamo dire integrative per allargare gli orizzonti di uno studio del ruolo svolto dai problemi, dalle strutture istituzionali o meno della religiosità locale per prospettive molto più ampie, che non sono più strettamente legate al problema della visita. Poi potremmo affrontare anche l'altro problema che è connesso a questo che vi dicevo della formazione della mentalità borghese della classe dirigente locale, vedendo altro tipo di fenomeni aggregativi che fanno parte della vita della diocesi e della parrocchia, come per esempio le confraternite. Ma su questo qui è un tema che potremo discutere dopo. Thank you.